Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno ragazze, come state? Noi benissimo, poi quando ci sentiamo... Grazie, figurati. A chi non c'è. Cioè, dai, sei dato... più l'ho preso, no? Hai preso 7. Dai, sei andato per l'impegno. Allora, premesso che io sono una casinara distratta, roba varia, eccetera, eccetera. Anche per te. Il domandone lo faccio io. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Sono prigioni. E a proposito di luce, siete tra quelli che tengono la luce accesa anche in pieno giorno o che si addormentano con la luce accesa? Beh, forse vale la pena di ricordarsi di spegnerla, e non solo per evitare sorprese in bollette, ma per proteggere il nostro sonno. La luce artificiale è infatti uno dei fattori più strettamente associati alla deprivazione di sonno, una condizione ahimè molto comune nella nostra società, che però non è esente da rischi. Ma a compromettere la durata e la qualità del nostro riposo ci pensa anche la tecnologia. La luce artificiale emanata da PC, tablet e simili rischia infatti di sfasare il nostro orologio biologico interno, ne abbiamo parlato tante volte, e anche di alterare così il ciclo di sonno e veglia. L'abbiamo ripetuto, lo sappiamo tutti, dormire è un bisogno primario, proprio come mangiare, bere, respirare, ed è una componente fondamentale della buona salute e del benessere in tutte le fasi della vita, quando nel bambino piccolo come nell'anziano. Insomma, meno sonno, meno vita, questo dicono le ricerche, ma anche meno qualità di vita. Allora, oggi cercheremo di capire che cosa disturba il nostro sonno, che cosa lo frammenta, che cosa interferisce sulla sua qualità. Se non dormite a sufficienza, se vi viene sonno durante la giornata, se avete un disturbo del sonno che vi impedisce di dormire, non vi fa dormire bene, chiamateci, perché il nostro esperto analizzerà il vostro caso. Chiamateci anche per capire quanto è grave la vostra sonnolenza diurna. La sonnolenza lo sappiamo, quando noi al mattino oppure durante il pomeriggio, in alcuni momenti della giornata, abbiamo un po' la palpebra che cala, ecco, potrebbe essere un po' segno, come mi dice Carmelo Lauricella, che la qualità del nostro sonno non è ottimale. Allora chiamateci, c'è un test che permette al medico di valutare se la vostra sonnolenza è fisiologica, perché magari siete stanchi, oppure invece se tradisce un disturbo del sonno. Chiamateci, perché il nostro esperto vi farà questo test in diretta, e da questo test impareremo sicuramente tante cose anche noi. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Rido perché mi hai fatto venire in mente quella famosa pubblicità, ti ricordi, di quei messicani a cui calava la palpebra ad un certo punto del pomeriggio. Me cala la palpebra, dicevano, ed effettivamente è quello che capita quando ti viene la botta di sonno incontrollabile. Allora, ma c'è botta e botta. È vero. In tutto il ragionamento che però tu hai fatto, io ho captato ovviamente la parola di denari, le bollette, lo hai detto all'inizio appunto del tuo ragionamento. Bollette, una famiglia sempre più numerosa, luce e gas sono le capostipiti, poi ci sono le cugine, le ultime arrivate, la DSL, la Pay TV e le neonate, ad esempio l'abbonamento ad internet per il nostro smartphone. Una famiglia numerosa, costosa, che spesso fa riflettere le nostre famiglie, soprattutto quelle che ci ascoltano. Le bollette che devono arrivare alla fine del mese naturalmente sono sempre tenute sotto stretto controllo, e ogni volta ci fanno fare un ragionamento sulla necessità di risparmiare. Per farlo, un'idea da prendere in considerazione può essere sempre quella del confronto e del passaggio, del cambiamento di operatore. Ma è davvero così facile come ci dicono? Noi ne abbiamo parlato tante volte e invece non sembra affatto così così semplice. Ne parleremo nella seconda parte del programma dalle 11.45. Intanto 800 24 00 24, utilizzate il numero verde per rispondere alla nostra domanda, al nostro invito. Provate a fare la lista di tutte le bollette che pagate in un mese per le varie voci di spesa. Quante sono? Avete mai fatto una quantificazione generale? Magari vi sorprenderete anche stamattina di quanto sborsate. Vediamo chi vince, magari pagando meno, non pagando di più. Scrivetecelo anche se volete in un messaggio al 349-238-6666 o su Facebook o su Twitter. Non si vince niente stamattina, però magari mal comune mezzo gaudio vi consolerete in un mondo in cui tutti paghiamo tanto. D'altra parte non sono solo le preoccupazioni e il pensiero delle bollette a toglierci il sonno, a interferire sulla sua qualità, c'è dell'altro. Oggi proviamo a capire che cosa disturba il nostro sonno, perché per piacere o per dovere dobbiamo imparare a fare sonni d'oro. Ne parliamo oggi con il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Dottore, noi dormiamo meno e dormiamo male. I dati fotografano una situazione che ha le dimensioni di un'epidemia, ma ciascuno di noi, se la situazione proprio non è molto grave, cerca di fare buon viso a cattivo gioco, aspetta, si attrezza in qualche modo, rimanda oppure si rassegna. Ma il problema è che a sottovalutare il problema si rischia nel breve e nel lungo periodo. Sono andata a recuperare qualche dato. Dopo diverse notti di carenza di sonno, anche se si sta svegli solo 1 o 2 ore in più per notte, l'organismo ne risente come se non si fosse dormito per un giorno o due. E poi c'è il sonno arretrato che si accumula e quindi si va in debito di sonno. Se noi facciamo ancora due conti, andare a dormire 2 ore più tardi del dovuto tutte le sere per una settimana ci fa totalizzare un debito di sonno di 14 ore, che non sono poche, dottor Nobili, soprattutto perché non possono essere recuperate. Della serie quel che perso è perso, non basta posticipare la sveglia al sabato mattina. È così? Ma guardi, è proprio così. È così il fatto che negli ultimi 50 anni generalmente si tende a dormire di meno, la nostra società dorme di meno, sì. Lavora di più e dorme di meno. Ed è anche vero che il sonno per fortuna è in grado di recuperare, se noi abbiamo un paio di notti che vanno storte, è in grado di aumentare la quantità di sonno, di sonno profondo che nello stesso tempo può fare, ma non più di tanto. Se l'abitudine è cronica di perdere costantemente mezz'ora, un'ora di sonno e questo si accumula, a un certo punto, anche per quanto possa essere tra virgolette elastico, il sonno non riesce più a recuperare quello che ha perduto. Quindi questo poi alla fine si fa in maniera sempre progressiva a sentire sulla qualità di vita durante il giorno. Dottore, è vero che è stata provata una relazione tra ore di sonno e durata della vita? Ma hanno fatto molti studi su questa cosa e in effetti ci sono dei dati che fanno vedere che quando il sonno è molto corto, quindi quando dormiamo meno di 5 ore, intorno alle 5 ore, la vita sembra essere più corta, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Ci sono anche dei dati che mostrano che quando invece ci sono soggetti che dormono regolarmente più di 9-10 ore, anche quelli sembrano avere una ridotta vita, probabilmente perché queste persone sono persone che hanno qualche problema di sonno e cercano di compensare dormendo di più. Quindi di fatto vale sempre la solita regola, quello che cade un po' nelle statistiche tra le 7 e le 8 ore sembra essere il sonno medio e quello che è più efficace anche per la salute delle persone. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza, per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. 800 24 00 24, date un voto alla qualità del vostro sonno da 0 a 10 e se il vostro giudizio è insufficiente chiamateci, ma diteci anche che cosa fate per prepararvi a dormire. Leggete, guardate la TV, lavorate al computer. Oggi insieme al dottor Nobili individueremo anche chi sono i ladri del sonno, ma vogliamo anche sottoporre chi tra voi chiamerà il nostro numero verde, segnalando naturalmente alla nostra centralinista. Vogliamo anche sottoporvi ad un test che viene utilizzato per valutare il grado di sonnolenza, non di stanchezza. È la scala della sonnolenza di Epworth. Dottor Nobili, ci racconta? Ma questa è una scala che ormai si usa da molti anni, che sembra essere assolutamente correlata poi anche con dei dati obiettivi clinici. Sono delle semplici domande che riguardano delle situazioni abituali in cui una persona si trova durante la giornata, come stare seduto a leggere oppure guardare un film o mentre mettersi disteso un attimo, e in cui si può rispondere ai vari livelli, evidenziare la propria tendenza ad assopirsi o addormentarsi addirittura. Compilando questo questionario esce fuori un punteggio, se questo punteggio supera un certo numero ci può essere un'indicazione a approfondire il perché esiste probabilmente una sonnolenza che è eccessiva, patologica, e che può essere indicativa di un disturbo o di una deprivazione di sonno che diventa significativa. Dottor Nobili, noi abbiamo la scala di Epworth sotto mano, ce l'ha anche lei, che così possiamo chiedere ai nostri ascoltatori. Io ce l'ho, Deborah è preoccupata perché dice dove ce l'hai, ce l'ho ad esempio, e ci sono tutte le domande, così se i nostri ascoltatori, forse si candida anche Carmelo Lauricella, vogliono intervenire, 800 24 00 24, andiamo subito a capire se quella sonnolenza che si avverte durante il giorno è una spia di un sonno non di qualità o di un sonno disturbato. Dottor Nobili, l'abbiamo anticipato perché Deborah parla di bollette, io mi sono subito attaccata alla bolletta della luce, perché tra i tanti nemici del nostro sonno c'è la luce artificiale. La luce illumina le nostre giornate, le nostre serate, ma accende anche il nostro cervello, perché gli manda messaggi per dirgli: oi amico, stai sveglio, non è ora di dormire, attivati. E ormai sono tanti gli studi che hanno misurato gli effetti dell'illuminazione sui cicli di sonno, e i risultati direi non sono molto rassicuranti. È così? È proprio così, guardi, la luce fondamentalmente è il principale sincronizzatore del nostro ritmo luce-buio, regola anche il nostro tono dell'umore, quindi è assolutamente benefica, ma quando è la luce naturale, quando è sincronizzata con il nostro ritmo sonnoveglia. È stato ormai dimostrato che la luce, in particolare la luce blu, che è anche proprio erogata dal computer, da tablet, dagli stessi cellulari, sono in grado di spostare il nostro ritmo circadiano. È proprio di un paio di mesi fa una ricerca in cui hanno addirittura confrontato i cosiddetti e-readers, i libri diciamo elettronici, questi lettori di libri elettronici, che sono comunque hanno una luce fioca, comunque anche loro, se vengono utilizzati un'ora prima di addormentarsi, possono spostare il nostro ritmo circadiano e alterare la produzione un po' di melatonina. Quindi bisogna assolutamente stare attenti, cioè almeno un'ora prima di andare a dormire bisognerebbe ridurre tutte le stimolazioni luminose e non avere l'abitudine di addormentarsi con l'iPad davanti agli occhi, ecco. Però, dottor Nobili, ci sono delle persone che per dormire hanno proprio bisogno della luce, quella accesa del comodino oppure dello smartphone, o di addormentarsi davanti alla TV. La TV diventa a volte conciglia e poi tiene compagnia, è quasi rassicurante. Ci sono persone che non dormono, io ho amici che mi raccontano: mi sveglio nel cuore della notte, mi giro un po' come un biscione nel letto, poi cosa faccio? Poi tu dici con i tuoi esperti che non bisogna stare a letto, allora mi trasferisco di là, mi allungo sul divano, accendo la tele e ronfo. Compagnia, questa luce che ci guarda mentre noi dormiamo, disturba in qualche modo il nostro sonno? Allora, sicuramente lo disturba. Poi ci sono dei compromessi, ci sono delle persone che si adattano e trovano questo essere un meccanismo alla fine un po' anche di condizionamento, che è semmai rilassante. Però di sicuro la luce, la luce anche quando abbiamo gli occhi chiusi, se arriva può modificare la secrezione di melatonina. Poi ci sono persone più o meno sensibili, persone che possono assolutamente dormire con la luce, è tutto un po' variabile, ma sicuramente il nostro organismo, la nostra biologia ci dice che dormire sarebbe molto meglio farlo senza avere una stimolazione luminosa, e nemmeno nella fase precedente il sonno dovremmo avere delle stimolazioni luminose dirette, tant'è vero che ci si può anche proteggere. Comunque, se uno è costretto a lavorare alla sera può anche mettersi degli occhiali, ci sono degli occhiali che riparano come dalla luce del sole, uno li può utilizzare anche per proteggersi dalle luci dell'iPad o del computer. Insomma, occhiali per le luci blu. Sì, ci sono anche degli, adesso so che sono usciti anche degli occhiali alla melanina, poi insomma lì bisogna andare dal proprio oculista e chiedere, visto che se uno è costretto, anche perché da quello che non sono io l'esperto, ma potrebbero essere anche delle ripercussioni sul sistema visivo, l'esposizione costante, cronica anche della luce blu sulla retina, ecco. Quindi noi torneremo sicuramente su questa puntata, ma intanto cercate degli occhiali se dovete stare davanti al PC, che può essere un buon compromesso. Intanto arrivano tantissime telefonate, ma i messaggi, 800 24 00 24 349 238 6666. Potete seguirci su Facebook e su Twitter. E allora invitiamo a intervenire Maria, che ci chiama dalla provincia di Trento. Buongiorno Maria. Mi ridici intanto come si chiama la scala? Adesso te lo dico, dopo Maria ti faccio aspettare. Maria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria, siamo attenti e preparati perché c'è il dottor Nobili e quindi possiamo darle una mano. Ok. Sì, che cosa dobbiamo fare Maria? Maria è... sì, ma non ho capito. Allora, lei ha una domanda da farci? Sì, sì, sì, ma non... Allora, l'esperta metterà le domande o... Ah, ok, lei vuole fare il... Per così svegliamo anche il test. Lei vuole fare il test di Epworth. E il dottor Nobili, quindi, che è questo test di cui abbiamo parlato, per valutare e misurare la sonnolenza diurna. Sì, sì. È pronta, Maria? Allora il dottor Nobili può attaccare con le domande? Allora, innanzitutto, signora Maria, ma lei vuol fare questo test perché ha l'impressione di soffrire di sonnolenza durante il giorno? Ma io sì, io ho questo problema da più tempo, cioè credo che ce l'ho dal tempo dell'adolescenza e non l'ho trattata perché non l'ho trovata significativa. Ecco, Maria ci racconta un dato di cui abbiamo parlato spesso con lei, dottor Nobili. La gente un po' si attrezza, un po' si rassegna, dice vabbè, io sono uno che dorme poco, dorme male, oppure si dà la colpa agli anni, alle preoccupazioni. È la stessa cosa che succede, no? Quando uno dice vabbè, io non ho tempo di mangiare bene, no? Perché non ho tempo di fare sport. Ecco. Allora, dottor Nobili, siamo nelle sue mani e intanto che Maria fa il test, proviamo a farlo naturalmente anche noi, perché così valutiamo il nostro punteggio. Maria, allora, dottor Nobili. Le domande sono queste. Ad esempio, signora Maria, se lei rimane seduta a leggere, quali sono le probabilità che le possa venire sonno, che si possa assopire? Ci sono delle buone probabilità, non si assopisce mai o è altamente probabile? Altamente probabile che lei si addormenti mentre sta leggendo. E mentre guarda la televisione, ad esempio, potrebbe capitarle anche? Potrebbe addormentarsi davanti alla televisione. E se per caso si trova seduta in un luogo pubblico, non so, sta aspettando per una visita o per, è in coda alle poste, senza far nulla, le viene sonno? Forse si può meno. Addormentare? Forse meno, c'è una più bassa possibilità. Ok, se qualcuno la porta in macchina, lei è un passeggero e per un'ora se ne sta a fianco al conducente senza chiacchierare, così, un po' in situazione di monotonia, le può venire sonno, si può addormentare in macchina? È capitato che ho sentito, abbiamo messo su Radio 24 mentre stavo vicino al mio sposo nella macchina e mi aveva preso un colpo di sonno tremendo anche nonostante se Radio 24 nonostante Radio 24 ma non era cuore denari ho sentito della cosa di quello che si trattava, di quello che trattava la programma. E allora si è risvegliata, ecco, vede? E se lei si distende nel pomeriggio, ad esempio, per riposare, si addormenta facilmente? Sì. Però non ho tanta possibilità di... No, ma mettiamo che lei avesse la possibilità di sdraiarsi, si addormenterebbe? Sì. E se le è mai capitato di addormentarsi mentre parla con qualcuno? O di avere proprio far fatica a rimanere sveglio? No, questo no, però mi ricordo che mi sono addormentata nei corsi alla facoltà liceo. E dopo pranzo le viene sonno e può succedere che si addormenti anche se non ha bevuto alcol, anche se non ha mangiato più di tanto? Sì, le può venire sonno. E le è mai capitato, lei guida la macchina? No, proprio questo parlavo con il mio sposo, ho paura. E sarebbe una delle paure. Allora, diciamo che ora fare il test così rapidamente è un po' è anche in maniera un po' affrettata di comprendere il fenomeno, però già da quello che vedo il suo punteggio è un punteggio che si avvicina, che è intorno proprio a quelle situazioni un po' in cui la sonnolenza diventa un po' esagerata. Adesso, che non sia proprio perfetto il mio conto, ma 3, 3, 6, 7, 8, 8, 10, 12, superiamo i 10, quindi entriamo già nella sonnolenza che non è la sonnolenza quella normale, fisiologica, vuol dire che qualcosa c'è, potrebbe essere che lei dice che comincia dall'adolescenza, che fa parte proprio di un suo disturbo intrinseco, o c'è qualcosa che non va nel suo sonno, o che lei fondamentalmente è un po' deprivata di sonno in maniera cronica. Quindi quello che lei ci riferisce di avere una sonnolenza che in effetti è un po' esagerata, anche il test sembra dimostrarlo. Sembra confermarlo. Beh. E naturalmente questo test lo riportiamo anche sulla pagina di Cuore Denari, si chiama la scala di Hayworth, 800 24 00 24. Subito dopo i mercati, altre notizie importanti sul sonno. Sappiamo che fa bene, che è un bisogno primario, ma il sonno ha anche una funzione di spazzino. A tra poco. Mi cala la palpebra. Mi vuol dire quello che desidera? Ecco, mi è arrivata questa bolletta. E con ciò? Come con ciò? La guardi bene. 1.750.822 lire. E con ciò? E come? 1.750.822 lire. Ebbè, io ripeto a dire, e con ciò? Come con ciò? E vuol dire che le hanno conteggiato i conguagli. A me? Sì. Guardi che a me la cacciagione non piace. E non vedo chi può asserire che io durante l'anno spenda 1.750.822 lire per comprarmi le quaglie. E allora Franco e Ciccio ragionavano ancora con le vecchie lire, oltre che con le quaglie, ma sempre di bollette si parlava. Noi oggi a Cuore Denari faremo i conti in euro e non in franchi svizzeri, che in realtà è il vero tema della giornata, ma come sempre cercheremo di farlo a nostro modo, quagliando qualche informazione pratica e utile su come risparmiare sulle bollette. C'è che è molto drastico, Laura da Como addirittura racconta che con il suo compagno hanno staccato tutti gli elettrodomestici dall'elettricità ad eccezione del frigo. Ah beh, perché? Proprio a mali estremi, estremi rimedi. Stavo pensando proprio al frigorifero, alla puntata di ieri. Esattamente. Continuate intanto a giocare con noi all'800 24 00 24. Vi abbiamo chiesto di provare a fare la lista di tutte le bollette che pagate in un mese o ogni bimestre, con le varie voci di spesa, quante sono, quanto spendete. Provate a dirci anche su quale bolletta vi state impegnando a risparmiare di più, cambiando magari le vostre abitudini, magari spegnendo le luci e quindi dormite anche un po' meglio, Nicoletta? Io direi di sì. Allora 800 24 00 24, chiamateci per dirci che cosa disturba il vostro sonno, fate fatica ad addormentarvi, vi risvegliate nel cuore della notte, avete un risveglio anticipato, vorreste dormire ma le vostre gambe sembrano non trovare riposo, o avvertite crampi che vi fanno sobbalzare, o ancora sono i brutti sogni che vi svegliano, o perché no, la voglia impellente di fare pipì, anche quella è una seccatura. 800 24 00 24. Dio benedica chi ha inventato il sonno. Mantello che avvolge i pensieri di tutti gli uomini. Cibo che soddisfa ogni fame. Peso che equilibra le bilance e accomuna il mandriano al re, lo stolto al saggio. Miguel Cervantes. Beh, oggi però Cervantes, alla luce delle più recenti scoperte, non si fermerebbe qui. Aggiungerebbe che il sonno, oltre a proteggere il cervello e le sue funzioni cognitive, sappiamo che consolida la memoria, migliora l'apprendimento, per esempio, consente al cervello di fare le pulizie, eliminando proprio le scorie prodotte dalle cellule cerebrali. Una funzione cruciale se, come sembra, alcune malattie neurologiche dipenderebbero dal mancato lavaggio di queste proteine tossiche durante la notte. Dottor Nobili, qua abbiamo bisogno di lei. Questa ricerca apre di nuovo, no? Ci dà degli spunti interessanti per sottolineare soprattutto anche l'importanza del sonno, ma i ricercatori sono al lavoro. Sì, ma assolutamente, come ha detto lei, il sonno serve a tante cose, abbiamo visto la memoria, abbiamo visto in altre puntate anche che riduce il sistema vegetativo, fa calare la pressione e così via. Questa è una scoperta recente estremamente affascinante, che ha mostrato che a livello del sistema nervoso centrale c'è, chiamiamolo così, un sistema di drenaggio con delle tubature che durante il sonno si allargano e quindi permettono aumentano il drenaggio di alcune sostanze, in particolare le sostanze tossiche, tra cui una famosa che è la beta amiloide, il cui accumulo è legato a molte malattie neurologiche anche pesanti come la demenza. Ora è chiaro che non si può fare un diretto legame tra quelle malattie e questo sistema, però di sicuro apre un'altra porta alla ricerca, a approfondire questo fenomeno che secondo appunto tutte le neuroscienze attuali può essere una fonte di ulteriori scoperte e anche magari di comprendere meglio meccanismi alla base di alcune patologie. Per cui dormire bene permette anche di fare pulizia di sostanze tossiche, e tanto più sonno profondo produciamo, tanto più queste tra virgolette tubature si allargano, permettendo la purificazione dalle sostanze tossiche del sistema nervoso centrale. Dottor Nobili, tra i vari tipi di insonnia, le abbiamo citate, ce ne sono molte, perché c'è chi fa fatica a prendere sonno, chi si sveglia, chi non si addormenta più, chi fa dei risvegli continui, no? Sì. Dorme, poi si sveglia, poi si raddormenta, oppure chi ha dei risvegli anticipati. Quali sono quelli che mettono più a rischio la salute del nostro cervello? Guardi, in generale la cosa peggiore è avere l'insonnia cronica, di qualsiasi tipo sia. Poi purtroppo generalmente l'insonnia cronica diventa un'insonnia mista, in cui c'è sia la difficoltà a prendere sonno, che il sonno frammentato, che la sensazione di un sonno non riposante. Poi, come abbiamo detto all'inizio, il sonno, per fortuna, se siamo di fronte a un'insonnia transitoria, il nostro organismo è in grado poi di compensare, di recuperare. Quando però l'insonnia diventa cronica e la deprivazione quindi di sonno è costante, qualsiasi sia la sua natura, va approfondito e cercare di mettere a posto un po' le cose. Ecco. Quando lei parla di insonnia cronica, vuol dire dopo quanto tempo? E soprattutto, io ho la sensazione che a trascurare il problema di sonno, tutti noi abbiamo magari delle preoccupazioni, dei pensieri, e allora iniziamo a dormire un po' male. Giorno dopo giorno, un po' ci convinciamo, quando andiamo a letto diciamo speriamo di dormire della volta che non dormiamo. Esatto. Ma trascurando questo problema si cronicizza. Dottor Nobili, è possibile? Questo, e che cos'è che facilita questo passaggio da acuto, dico acuto, tra virgolette, a cronico? Quella cosa che ha detto, e in alcuni è cosciente, in alcuni meno, è al momento che la persona inizia a aver paura di non dormire, anche involontariamente inizia a mettere in atto dei comportamenti che non fanno altro che perpetuare il disturbo. E lì comincia la cosa difficile. Se invece una persona avesse più fiducia nella capacità del sonno di recuperare da solo, magari una notte va storta, la notte dopo la deprivazione di sonno che ne è conseguente può facilitare invece un sonno. In realtà la persona ha paura di non dormire, questa paura mette in atto il meccanismo, e quindi quando questa cosa diventa cronica, l'insonnia è transitoria, se dura un paio di settimane poi se ne esce, la chiamiamo ancora una forma acuta. Quando superiamo il disturbo, supera qualche settimana, 3-4 settimane, diventa cronico, con un grosso rischio di rimanere anche molto più a lungo. Quindi una saggia cosa è cercare di bloccarla all'inizio. Cosa che non succede molto spesso nei pazienti che noi vediamo, e purtroppo magari sono andati dall'amico, gli ha suggerito questo, anche qualche volta i suggerimenti sbagliati, tipo prendere un farmaco spesso non è necessario, e anzi può, insomma, bisogna farsi consigliare da degli esperti su queste cose, andare dal proprio medico. Prendiamo come tempo la settimana, quante notti disturbate possono essere segnale di insonnia? Una, due, tutte? Guardi, questo dipende molto da quello che sono anche le ripercussioni diurne. Avere delle notti disturbate cronicamente, diciamo anche una o due alla settimana, vuol dire che qualcosina non va. E quindi comunque sia, sarebbe meglio cercare di capire perché non vanno queste cose, e perché i rimedi ci possono essere, basta capire quali sono le cause. Per cui io non farei nemmeno un giorno o due. Ci sono delle persone che hanno delle ripercussioni marcatissime, ma anche tra gli stessi insonni. Certo. Insonni che stanno malissimo di giorno, anche apparentemente per una diminuzione di sonno che non è così marcata, ed altri che invece riescono a sopperire di più a questa carenza. Quindi è anche molto soggettivo questo fatto, anche perché non conta solo quante ore dormiamo, l'abbiamo detto più volte, conta la qualità del sonno che noi facciamo. E quindi è difficile dare un messaggio generale. Quindi quando una persona vive male questa situazione e trasferisce questo vivere male non solo nelle sue ore notturne ma anche durante il giorno, quello è sicuramente un momento cruciale in cui bisogna assolutamente Vuol dire sonnolenza, vuol dire cambio di umore, irritabilità, concentrazione. Chi dorme male e non fa altro che dire questo tutto il giorno: non ho dormito, come se fosse un'ossessione. No, mi capita qualche volta con dei colleghi, sento che mamma mia. Esatto, così consideriamo che esistono anche quelli che pensano di non dormire, c'è un lato molto psicologico che è estremamente affascinante. Sono più gli uomini o le donne, dottor Nobili, secondo lei? Sono più le donne generalmente quando superano anche una certa età che affollano i nostri ambulatori, però il disturbo può essere presente assolutamente anche negli uomini, ci mancherebbe. Pietro non ha assolutamente questo disturbo perché dorme un sacco di ore durante la notte. Pietro, buongiorno. Buongiorno, esatto, il problema è il contrario. Il Ronfalin lei prende. Come? Lei prende il Ronfalin, mi sono inventata. Esatto, cioè, il dormentino. Il problema è che da sempre, cioè non è una roba, adesso ho 53 anni, ma sono sempre stato uno che dormiva molto. A oltranza. Ma a oltranza no, perché comunque oltre una certa ora del mattino, non sono uno che dorme fino a mezzogiorno, anche potendo, cioè io massimo alle 9 sono in piedi, però mi rendo conto che se non ho dormito quelle 9 ore, io ormai ho visto che la mia media per sentirmi riposato il giorno dopo è quella. Il giorno dopo, insomma, non ho la crisi di abbioc che mi casca la testa sulla scrivania, no, però insomma non è lei, non è il Pietro di sempre. E soprattutto se una sera capita con gli amici, non so, magari nel weekend, visto che non si lavora il giorno dopo, faccio, non so, le 2 anziché le solite 11, 11 e mezza, mezzanotte, anche se il giorno dopo dormo le stesse ore, cioè se anche se mi alzo sfasato di quell'orario, io ci metto, sarà l'età, 3 giorni a riprendermi, anche se il giorno dopo dormo normalmente, cioè ho una fatica, cioè per me sfasare, insomma, non recupera. La fascia oraria, lei è un orologino, Pietro, regolarissimo, dottor proprio. Nobili, esatto, se sfascio la fascia oraria in cui vado a dormire, ho una ripercussione abbastanza importante. E poi io mi sveglio minimo 2 volte a notte per andare in bagno, ecco. E ho il vantaggio che però, come ritocco il letto nell'arco di 30 secondi, ecco, un minuto, io ridormo. Forse russa, dottor Nobili, forse Pietro russa? È vero che c'è una relazione tra il bisogno di andare a fare pipì e il russamento? Certo, questo sì, però per Pietro mi sembra che la situazione sia che lui fa parte di quella, nella statistica che dicevamo all'inizio, 7-8 ore la media, ci sono quelli che dormono anche 9 e fa parte comunque, sono i cosiddetti lunghi dormitori che però hanno un sonno buono e che devono non solo avere quel sonno di quella durata, ma di essere ben sincronizzato con quel ritmo circadiano, per cui quello rientra nel discorso che facevamo prima, la qualità, se sfasiamo il nostro sonno rispetto al ritmo circadiano perdiamo la qualità e quindi dopo abbiamo delle ripercussioni nonostante la durata sia buona. E poi è vero che chi si alza di notte più volte per far pipì può avere anche sottostante un disturbo respiratorio come l'apnea notturna, e quindi bisogna comunque approfondire anche questo aspetto. Ecco, questo lo sottolineiamo perché ci rivolgiamo agli uomini, non è sempre solamente un problema di prostata, ma potrebbe essere un problema di russamento, dottor Nobili. Certo, è più rassicurante. Ne vediamo tantissimi di pazienti che hanno questo problema di notte e di giorno, quando faccio la domanda, dico no, ma di giorno non ho assolutamente quel problema, e poi si scopre che hanno le apnee. Purtroppo le apnee modificano un po' alcuni aspetti del volume cardiaco, ne fanno dilatare il cuore, fanno produrre un ormone diuretico che ci fa far pipì durante la notte, e questo aumenta anche la viscosità del sangue durante le ore notturne ed è un ulteriore fattore di rischio legato a questo disturbo che noi abbiamo più volte quante discusso. Cose succedono nel nostro corpicino, non riusciamo a rispondere a tutte le vostre domande. No, ma anche ad esempio sentiamola, che è interessante. Sì? E poi ci sono anche ascoltatori che chiedono informazioni sulla melatonina. Noi vi diciamo sempre, se non riusciamo a passarvi in onda, voi scrivete a Cuore Denari, noi inoltreremo le vostre domande ai nostri esperti. Loredana, buongiorno. Senta, buongiorno. Io faccio un lavoro che purtroppo mi fa stare la notte alle 2:30. Stacco il giorno alle 11:30. Prepara il pane, Loredana? No, faccio la barista. Ah, vabbè. Però ecco, la sera vado a letto che sono 8:30, le 9 proprio, quando riesco a far tardissimo. Quando riesce a dormire 5 ore a notte sul fisico? Sulla salute. Grazie, dottor Nobili, ci sarebbe da aprire un grande capitolino sui lavori a dei turnisti. I lavoratori ce ne occuperemo, ma proprio per un messaggio, noi dobbiamo andare 5 ore sono un po' poche. quindi bisognerebbe, si può compensare durante il giorno. Ci sono, no, il sonno può essere anche bifasico, alcune persone riescono a dormire un po' di notte, dormono di meno di notte, ma riescono a fare un bel sonnellino di un'ora e mezzo di giorno e sommando le 24 ore in qualche modo hanno il sonno che è necessario. Quindi deve allenarsi la Loredana, di provare a fare un pisolino. Un pisolino. A Loredana consigliamo un pisolino. Noi ringraziamo il dottor Nobili per essere stato con noi. Grazie a voi. A presto. Molto, a presto. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e andate a contare, a prendere le bollette adesso, perché le contiamo, le leggiamo e cerchiamo di risparmiare. Ci penso io adesso a farvi perdere il sonno. Sta poco per andare in onda il traffico. Ho saldato le multe sospese, luce, gas, bollette comprese, il narcotico da... E voi avete saldato tutte le bollette come quelle che quantomeno avete in sospeso, come ha fatto Samuele Bersani, oppure fate fatica a stare dietro ai pagamenti? Nel 2015 qualche aiuto potrebbe arrivare dalle tariffe in discesa. Si calcola infatti che con l'anno nuovo potrà arrivare un risparmio, sempre medio naturalmente, di circa 72 euro a famiglia sulle bollette dell'energia. Dal 1 gennaio si è registrata una riduzione del 3% per la bolletta dell'elettricità e una flessione un po' più lieve, pari allo 0,3% per quella del gas. Queste sono decisioni che ha comunicato proprio poche settimane fa l'autorità per l'energia nell'aggiornamento di fine anno sulle condizioni di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela nel primo trimestre 2015. Sono buone notizie, un trend che potrebbe continuare perché sappiamo che sta scendendo in maniera molto forte, molto prepotente e dirompente il prezzo del petrolio. Lo vediamo anche dal pieno di benzina, tema che abbiamo già affrontato a cuore denari, ma noi speriamo di vederlo anche in queste che sono considerate spese fisse incomprimibili per le famiglie, perché comunque la luce la dobbiamo utilizzare, soprattutto se abbiamo dei bambini piccoli in casa. Insomma, possiamo fare tante cose interessanti per cambiare le nostre abitudini, ma qualche volta non è che proprio i miracoli nelle nostre abitazioni li possiamo compiere. Comunque il risparmio deve arrivare anche da noi, dalle nostre scelte e anche dall'energia, è il caso di usare questa parola, che possiamo scegliere di dedicare con pazienza alla ricerca, al confronto, alla comparazione delle diverse offerte. E noi oggi parliamo proprio di questo nella pagina di Denari. Salutiamo Silvana De Paolo, content manager di mybest.it. Questo è un sito leader in Italia, ce ne sono anche altri, questo è particolarmente attivo nel confronto gratuito e trasparente dei prezzi delle principali utilities, si chiamano così in inglese. Come si chiamano? Utilities. Utilities. Lui, ci sono praticamente tutte quelle società che ci erogano e distribuiscono energia elettrica, quindi ci garantiscono l'illuminazione nella nostra casa, il gas, la telefonia, internet e pay TV e tutto quello che conosciamo. De Paolo, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, intanto le linee telefoniche, proprio a questo proposito, sono aperte 800 24 00 24, il nostro numero verde però è gratuito, è verde appunto. Raccontateci quali sono le vostre disponibilità nella gestione delle bollette e dei contratti. Raccontateci se avete mai provato a cambiare operatore. Ogni tanto si fa, qualche osservatorio lo fa, un po' un bilancio degli italiani, cercano di capire se sono pigri o meno, se sono fedeli alle vecchie società. In realtà qualche prova di infedeltà tentano di compierla, però non hanno un grandissimo successo. A volte si è fedeli per pigrizia. Si è fedeli per pigrizia, invece si è fedeli in questo caso perché il mondo che si cerca di conquistare è difficile da accarappiare, poi capiremo perché. Comunque le modalità per interagire con noi sono sempre le stesse. Oltre al numero verde potete anche scriverci al 349-238-6666 su Facebook e su Twitter. Intanto, Silvana De Paolo, spieghiamo un po' come funzionano in termini generali i comparatori come il vostro e come possiamo usarlo al meglio. Diamo subito dei consigli pratici agli ascoltatori. Allora, guardi, i siti di comparazione nascono, come proprio anche il nostro, come un sito che ti fa risparmiare sulle bollette. E questo è l'intento che hanno, no? Noi ci impegniamo ogni giorno per riuscire ad arrivare a questo obiettivo con i nostri utenti, mettendo a disposizione tutta una serie di tariffe dei vari mercati, quindi ADSL Luce, quelle che nominavate voi poco fa, ma anche ADSL, Pay TV, telefonia, eccetera, eccetera. E cerchiamo di confrontare con tutte le tariffe presenti in quel preciso momento sul mercato, quelle che possono essere le più corrette per l'utente che ci richiede, diciamo, il nostro, che richiede il nostro aiuto. Ovviamente è importante conoscere lo stile di consumo dell'utente, non è necessario, cioè non basta guardare il prezzo, questa tariffa costa meno che è l'attivo, quella che costa meno potrebbe non essere quella più adatta a noi. Quindi che cosa intende lei esattamente con come questo concetto? Come si fa, insomma? Quando allora, parla di stile di consumo, insomma, quali sono le informazioni che dobbiamo avere chiare in testa relativamente alle nostre abitudini di consumo, appunto? Allora, per scegliere correttamente una nuova tariffa bisogna controllare una serie di cose. Innanzitutto bisogna informarsi, come dicevo prima, confrontare le componenti presenti in bolletta, quindi proprio bolletta alla mano, controllare per luce e gas il costo del kilowattora o del metro cubo, conoscere la tipologia di connessione di cui abbiamo bisogno per la DSL, la tipologia di telefonate che effettuiamo. Quando controlliamo le tariffe, controllare la forma di contratto che il fornitore ci offre. Insomma, bisogna capire quelli che sono i nostri reali fabbisogni, un po' come quando si va a fare la spesa e in base al numero dei componenti della famiglia, ai gusti, alle necessità, si decide cosa mettere nel carrello, no? Ecco, noi infatti abbiamo deciso di accompagnare i nostri utenti in questo con uno staff di praticamente esperti che con bolletta alla mano, telefonicamente, in una telefonata gratuita, aiuta l'utente a capire quella che potrebbe essere quella che sarà la tariffa più adatta a lui. Perfetto. Proprio controllando tutte le voci presenti in bolletta. Perché effettivamente è un'operazione che già ci mette un po', no, in allarme. Non è banale leggere una bolletta, soprattutto quelle di luce e gas. Tu ti sai orientare assolutamente nel mondo del kilowattora dei metri cubi, niente. Guarda, quindi già con un abbonamento di un telefono, bene o male, siamo in grado di stabilire quante telefonate facciamo ad un telefono fisso, quante ad un cellulare, per cui magari lì, ecco, forse orientarci è un po' più semplice. Con i kilowattora, appunto, i metri cubi, qua l'impresa è un po' più ardua. Dottoressa De Paolo, quante, tutte le volte che gli utenti vengono a visitare il vostro sito, perché vanno a caccia naturalmente di risparmio e tentano di capire se, come diceva lei, bolletta alla mano, sono in grado di avere da parte vostra una proposta oppure un'offerta da parte di un altro operatore che potrebbe consentire appunto il risparmio. Quante però delle visualizzazioni che vengono fatte dal vostro sito si concludono poi in un'effettiva scelta di cambiamento, quindi in un nuovo contratto da parte dell'utente che ha trovato effettivamente un'offerta più conveniente? Guardi, le riporto i dati dell'anno che si è appena concluso, quindi del 2014. Noi abbiamo avuto un tasso di conversione che ha superato il 20%, che può sembrare banale ma assolutamente non lo è. Più del 20% delle persone che hanno cliccato su una tariffa presente sul nostro sito ha poi effettivamente cambiato operatore. Questo però, mi consenta, molto spesso è dovuto grazie all'aiuto che noi forniamo, al sostegno che abbiamo deciso di dare ai nostri utenti con l'aiuto degli esperti, perché come diceva giustamente lei, soprattutto per luce e gas notiamo che hanno parecchie difficoltà a comprendere esattamente le bollette. Ora speriamo arrivino delle bollette più semplici, sono previste per la fine di quest'anno. Esatto, la bolletta semplificata, l'autorità del gas e dell'energia la promette da anni, mi pare che tutto debba partire non prima del 2016, giusto? Esatto, si parlava di fine comunque 2015, non prima, ecco, non prima della fine dell'anno. Un unico documento dove con chiarezza si legge quanto consumiamo, quali sono le unità di misura a cui dobbiamo fare riferimento, naturalmente per stabilire effettivamente qual è il nostro profilo corretto di consumo. Allora, noi dobbiamo andare adesso a dare la linea al giornale radio, però magari in un flash, dottoressa De Paolo, mi può dire in quali settori si cambia di più fra le utenze tradizionali, luce o gas? Luce, assolutamente luce. Cioè, noi abbiamo un 63% di cambi sulla luce, soltanto un 37% sul gas tra questi due utilizzi. I motivi sono molteplici. Il primo è effettivamente che l'energia costa di più rispetto al gas. Il gas è anche più controllabile, perché comunque chi ha un riscaldamento autonomo decide fino a quanti gradi vuole che la caldaia vada, riesce a controllarlo di più. Molti abitano ancora in palazzo palazzi dove il riscaldamento è centralizzato, quindi lo pagano nelle spese condominiali. Esatto. E non la vedono la bolletta, che è un altro problema. Dottoressa De Paolo, magari da questo ripartiamo nella seconda parte del programma. Giorgio da Roma ci accompagna nel giornale radio, poi la sentiamo subito dopo. È caduto, nel frattempo quindi ci accompagna per forza. A tra poco. La bolletta va pagata e consiglio tutti di pagarla, la bolletta subito. Non la devi accumulare sullo scrittoio, perché le bollette si accoppiano. Tu ne hai lasciate due, c'hanno il codice a barre, hanno fatti i cuccioli, hanno moltiplicato. Devi andarla a pagare subito, non avere timori, prima vai a pagare, in modo tale che sei pronto per pagare le altre bollette. Tant'è vero che loro, chi gestisce, sa che tu le puoi pagare. Ecco, quindi quando arrivano non lasciamoli la busta chiusa sul, allontaniamole almeno sul tavolino lì dell'ingresso, perché fanno i cuccioli le bollette, quindi l'abbiamo capito. Una in ingresso, una in soggiorno, ecco. Una in bagno, almeno non creiamo troppi contatti. Questi ecosistemi. Allora, si moltiplicano queste bollette, come ci raccontava Enrico Brignano, bisogna star dietro ai pagamenti, certo, ma anche, ecco, possibilmente se pagassimo tutti meno saremmo tutti molto più contenti. Qualche volta il pagar meno deriva anche da una buona abitudine, un buon stile di vita che abbiamo introdotto magari nelle nostre case. Qualche volta è un po' difficile, perché magari anche comprimendo al massimo i consumi, sappiamo che molte bollette hanno una componente di tasse indescrivibile molto alta, un po' come capita per il prezzo della benzina, per cui lì davvero risparmiare diventa più complicato. Possiamo comunque provarci, ci sta dando qualche consiglio utile Silvana De Paolo, content manager di mybest.it, un sito molto noto, ecco, quindi lo dico all'ascoltatore che non ha capito, Francesco, mybest, tutto attaccato, .it, magari Francesco lo scriviamo anche su Facebook, così può andare a vedere nel dettaglio il nome di questa società. E quindi, insomma, se volete fare un confronto gratuito e trasparente nei prezzi delle principali utilities, appunto, e quindi se volete capire come risparmiare per la luce, il gas, l'abbonamento telefonico, la pay tv, andate a fare un confronto. C'è MyBest, ma ce ne sono anche altri, c'è SOS Tariffe, ce ne sono anche altri, adesso al volo non mi vengono i nomi, e quindi potete un po' capire se potete appunto risparmiare qualche cosa. 800 24 00 24, intanto continuano i racconti delle vostre esperienze e delle vostre difficoltà anche che avete riscontrato quando vi siete avventurati nel terreno magari in precedenza inesplorato del cambio di operatore, e lì i dolori sono arrivati, perché sono operazioni e procedure tutt'altro che semplici. Ma avevamo il nostro ascoltatore ritornato? Sì, Giorgio. Ci chiama da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie per avervi ricontattato. Volevo solamente portare la mia esperienza come contromisura al caro vita, ovvero di fronte ad un riscaldamento insostenibile a gas per una casa in campagna dove vivo, alle porte di Roma, ho potuto comprare una caldaia a idropellet, e da quel momento ho potuto ridurre del 60%, anche più, i costi per riscaldare una casa su tre piani, per cui una casa, insomma, anche abbastanza grande, certo. Esattamente, soprattutto la zona è umida e la campagna, per cui sono 4 gradi in meno rispetto a Roma. Eccolo, però è un impianto di riscaldamento che va bene per quella tipologia di abitazione, Giorgio. Sì, ovviamente. Ovviamente il pellet, adesso lei lo sa, ha una tassazione più alta. Ecco. Appena Giorgio ha cambiato, pam, è arrivata la tassa. Abbiamo già fatto la trasmissione una decina di giorni fa, Giorgio. Magari è se in la vada archivio, a ripescare, Giorgio. Si accorgerà che è in buona compagnia tra chi si lamenta per questa novità. Però Silvana De Paolo, parliamo proprio del cambiamento, di chi vuole cambiare gestore, distributore, operatore, no? Le difficoltà che si incontrano quando ci si avventura in questa, quando ci si imbarca in questa operazione, sono tante, ma dai vostri osservatori vi risulta che sono diventate un pochino più fluide queste operazioni di cambiamento, o ancora ci ritroviamo con i medesimi problemi che denunciavamo un anno fa? La vecchia società che non vuole mandarti via, e quindi la nuova fa fatica a fatturarti i consumi perché non tutte le comunicazioni sono avvenute in maniera corretta fra le due aziende. Insomma, quali sono oggi gli ostacoli che si ritrovano in questa portabilità, diciamo, delle bollette? Arriva la bolletta della vecchia, arriva la bolletta nuova, doppia fatturazione. Allora no, questo mito si può cominciare a sfatare man mano che il tempo passa, nel senso è vero che purtroppo ancora qualche caso come quelli appena descritti da voi vi sono ancora, casi legati a problematiche di solito tecniche per quanto riguarda il mercato della DSL o della telefonia, oppure legati ai gestori di zona per quanto riguarda la luce e gas. Purtroppo per il cambio di luce e gas può capitare di aspettare anche 3-4 mesi per cambiare effettivamente l'operatore, ed ecco che può succedere quell'inconveniente che si ricevano le bollette doppie perché ancora non è avvenuto proprio l'allaccio definitivo del nuovo fornitore, ma questo riguarda non tanto la società che si è scelta come nuovo gestore, ma proprio i fornitori di zona che devono dare le autorizzazioni. Mm-hmm. Quindi voglio dire, il cambio in sé invece è molto semplice, cioè basta chiamare l'operatore che si è scelto, quello che sarà il nostro nuovo fornitore, sempre con la bolletta alla mano, questo ormai è un caldo, un fisso, lasciare i propri dati anagrafici, alcuni codici che si troveranno nella bolletta. Esatto, non bastano i dati anagrafici, è per questo che la dottoressa De Paolo insiste sull'avere la bolletta sotto gli occhi, ci sono dei codici di migrazione per quello che riguarda per esempio gli operatori delle telecomunicazioni, quindi indicazioni precise e dettagliate che troviamo solo in bolletta, per cui non basta chiamare, che ne so, io sono con A2A, voglio andare con Enel, faccio dei nomi a caso, non basta dire buongiorno signor Enel, sono Deborah Rosciani, voglio fare da domani l'abbonamento per l'elettricità con voi, e non basta nome e cognome, abbiamo anche dei parametri tecnici che ci definiscono come utenti. Esatto, assolutamente sì. Allora, chi sentiamo adesso? Andrei sicuramente nella provincia di Palermo, certo, Rosario, buongiorno. Rosario. Buongiorno. Buongiorno, sì, a lei. Sono, eccoci. Ero in attesa. Senta, un appunto sull'argomento. Intanto sul prezzo, forse un po' fuori tema, che sia di gas che dell'energia, che è diminuito del 60-70% e nelle bollette non si vede niente. E poi vi invito a fare una trasmissione su come si legge una bolletta. Perché vi invito a capirci qualcosa. Guardi, chiamiamo l'autorità per questo, l'autorità del gas e energia, che si sta impegnando in questa bolletta più semplificata. Ognuno fa le sue, non si capisce. Io non ho mai capito una bolletta. Esatto, sono gli oneri di sistema, IVA su IVA. Grazie Rosario. La lettura delle bollette è un'idea che c'era venuta con Deborah, volevamo proprio fare l'ABC della bolletta. La bolletta semplice l'abbiamo anche fatta, però era talmente presto ancora che come dire, l'autorità del gas e dell'energia ci aveva raccontato solamente un po' la bozza di questa idea e come si stessero preparando. Ma noi però chiamiamo anche Rosario in quella puntata lì, così Rosario ci dice, facciamo il test, io e Rosario. Lui prende riga per riga e di cosa significa gli oneri di sistema. Ma che cosa significa questo e quest'altro? Rosario, grazie comunque per i suoi suggerimenti. Detto questo, effettivamente Rosario dice, insomma, è ancora presto per valutare, non lo so dottoressa De Paolo se voi avete anche un'idea, un commento su questo, è presto per capire e per fare una valutazione di impatto anche dei recenti cali del prezzo del petrolio sulle nostre bollette. Sappiamo che però non è utile guardare alla quotazione del greggio americano, del Brent europeo, per poi appunto fare anche una stima di ricadute sulla nostra bolletta. Sono dinamiche molto più complesse, non sono così automatiche, per cui anche come utenti non è che ci dobbiamo aspettare poi un effetto. Abbiamo visto anche con la benzina, ci sono voluti 6 mesi per avere un impatto molto chiaro nel nostro pieno di benzina, no? Dottoressa De Paolo, che ne pensa? Assolutamente sì, certo, va da sé che più i costi della materia prima e delle tasse aumentano, più le bollette lievitano e viceversa. Ora, grazie al prezzo del petrolio più basso, ma anche a una riduzione dei consumi, nell'anno appena trascorso 2014, tra aumenti e ribassi che ci sono stati per la luce del gas, l'Italia ha comunque complessivamente visto delle bollette un po' più leggere rispetto al 2013. Mm-hmm. Si è risparmiato circa un 1,1% sulla luce e un 4,7% sul gas, equivalenti a circa 106 euro in meno sulle bollette, ma 106 euro in meno sulle bollette complessive di tutto l'anno. Certo. Quindi ecco perché a volte si fa anche fatica a percepirle, no? Perché non sono sul semplice bimestre, ma bisognerebbe mettersi lì con la calcolatrice e confrontare le bullette dell'anno prima con quelle dell'anno dopo. E poi gli oneri fiscali purtroppo non ce li toglie nessuno e ancora una volta dobbiamo denunciare, questo lo sappiamo tutti, che abbiamo come al solito gli oneri più alti di tutto il resto d'Europa. Che differenza abbiamo ad oggi, dottoressa De Paolo? Guardi, confronto al resto dell'Europa, a causa delle maggiori tasse vigenti nel nostro paese paghiamo bollette più care per circa il 9%, per circa il 9% sulla luce e il 18% sul gas. Queste percentuali incidono per circa 200 euro in un anno sulle bollette italiane rispetto a quelle dell'Unione Europea, quindi una bella cifra. E infatti è un bel carrello della spesa per una famiglia media, però anche lì ci dicono che appunto non si può mai fare nulla. Però dovrebbe essere anche questa una battaglia che mette insieme consumatori, istituzioni e tutti quanti. Da chi andiamo? Andiamo da Roberto, che ci chiama da Roma. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Debora. Debora, e complimenti per la trasmissione, siete troppo forti. Grazie Roberto. Senta, io volevo solo sapere come ci dobbiamo difendere quando ci fanno delle offerte telefoniche e poi non rispettano quello che dicono. Le spiego il mio problema. Io sono stato alla fine tentato di cambiare da Telecom in Vodafone perché costava un po' di meno. Questo è stato fatto, diciamo, nei mesi scorsi. L'attivazione della linea nuova è avvenuta a fine dicembre. Da fine dicembre a oggi, diciamo che la linea più le volte che non ha funzionato da quella che ha funzionato. Io quando chiesi tutte le cose a chi mi faceva l'offerta, chiesi anche: ma se io la linea non dovesse andare bene, fossi insoddisfatto, posso andare via in qualsiasi momento senza pagare? E mi è stato risposto: non, a me può uscire tranquillamente senza nessun problema, non ha nessun costo, eccetera. Ma intanto queste conversazioni, soprattutto quando si perfeziona il momento del contratto, Roberto, dovrebbero essere registrate, per cui certamente lei può far valere magari questo diritto di riascoltare i termini dell'offerta nei modi in cui le è stata fatta, forse anche nei tempi per esercitare il recesso, perché quando è partito il nuovo contratto a fine dicembre, oggi siamo al 16 gennaio. Sì, al 16 gennaio non ha funzionato niente, oltretutto ci lavoro con internet, ho dei problemi seri, non funziona la telefonia, infatti ho dato il cellulare perché il telefono fisso non funziona, internet non funziona, due guasti aperti, due guasti chiusi, ieri mi hanno chiamato che era stato riattivato, stamattina non funziona. E allora ho detto: me ne vado da Vodafone. Mi ha detto: sì, lei può andare via, ma deve pagare 76 euro. Dico: come 76 euro, scusi? Mi hanno detto che non devo pagare niente, dice, gliel'ha detto, mi ha fatto l'offerta. Ma questo lo so, è così. Allora, queste cose, siccome poi non vengono mai scritte, nessuno te le dà per iscritto, noi siamo chiaramente ed è il problema anche di Gianni, che ci scrive al 349-238-6666 e ci scrive: perché le compagnie telefoniche non ti fanno usufruire del diritto di recesso? È una partita sempre aperta, dottoressa De Paolo, mentre prima abbiamo ragionato sulla difficoltà di fare il cambio di operatore nel settore della luce e del gas. Certo che se dovessimo fare l'elenco di quei terreni che ancora registrano situazioni di conflittualità molto ampie, quello delle telecomunicazioni è imbattibile, direi. È frutto, cioè, come dire, è anche sinonimo di un mercato molto vivace, molto competitivo, e ovviamente le compagnie si fanno guerra come possono, fanno delle proposte commerciali che a volte rasentano la slealtà nei termini in cui sono poste, perché poi alla fine non si concretizzano mai nella realtà quando devono partire. Secondo lei, adesso poi tutto questo ragionamento per chiederle, cosa può fare Roberto per tutelarsi? Allora, tutto quello che ha detto lei purtroppo è vero, nel senso c'è una grande, grande competizione, soprattutto nelle società che offrono i prodotti di ADSL, telefonia mobile, ed è proprio per questo che nella maggior parte dei casi, quando si firma un contratto nuovo, c'è un vincolo che ci costringe a restare con il nuovo fornitore per almeno 2 anni. Questo perché, essendo il prezzo mensile che ci offre essere talmente competitivo, a volte talmente basso, se noi recedessimo prima, la casa fornitrice avrebbe un buco in bilancio, cioè nel senso andrebbe in perdita. Per coprire i costi ha necessità che noi si resti con lui per un X mesi, X tempo. Ecco perché questo va sempre sottolineato dagli operatori. Diceva una cosa estremamente corretta lei: quando si attiva un nuovo servizio di ADSL o telefonia c'è una registrazione telefonica che viene fatta per legge, quindi l'utente al quale vengono dette cose sbagliate ne può fare richiesta, e con questa registrazione può dimostrare all'Unione Consumatori, andare all'Unione Consumatori, che comunque ciò che gli è stato detto non è corretto, e chiedere l'eccesso. Nelle telecomunicazioni c'è sempre un costo di attivazione e un costo di disattivazione, che sono proprio le due voci che tipicamente non vengono mai comunicate all'utente, quando sottoscrive un abbonamento nuovo o quando vuole invece lasciare una società, naturalmente. Quindi vabbè, noi oggi ve l'abbiamo detto, quindi che ne so, se oggi siete tentati di fare un cambio, mettete subito alla prova magari l'operatore del call center con il quale interagite per chiarire un po' bene i termini di questa offerta, ma insomma chiedete, non è che ho un costo di attivazione per l'abbonamento nuovo, se c'è sia quanto ammonta, quindi potete dire sì o no, e se io volessi andar via per quanto tempo sono vincolato e quando vorrò andar via, la disattivazione, la chiusura di questo rapporto quanto mi costa. Siamo state chiare? Non lo so. Io direi di sì, cioè, ma sono comunque le lezioni che abbiamo appreso oggi dalla dottoressa De Paolo, quindi comunque vale sempre l'invito, se avete dei problemi, se avete dei dubbi, Cuore Denari termina alle 12.30, ma resta sempre a vostra disposizione con i nostri esperti. Allora andiamo, avviciniamoci, andiamo a Pescara, forse, che Vittorio aspettava da un pochino, che volentieri dice? Vittorio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti, vi ascolto sempre con piacere quando posso. Grazie Vittorio, cerchi di potere un po' di più però adesso, non sia così. Non sempre posso, ma insomma quando posso. Grazie, ci dica. Dunque, io volevo fare un'osservazione riguardo alle modalità di addebito del consumo della per la luce e sulle bollette. L'addebito viene fatto sulla base di consumi presunti, sì, nonostante magari venga regolarmente comunicata l'autolettura del contatore e nonostante la presenza di ormai dappertutto contatori basati sulla telelettura, sì, che quindi possono essere letti senza l'intervento. Non sa quanti messaggi su questo punto ci stanno arrivando, Vittorio. A me è successo con un fornitore di estrema rilevanza nazionale come Eni di anticipare nell'arco di 6 mesi, quindi metà anno, l'importo di tutto quello che era il mio reale consumo, certo, annuale. Vittorio, guardi, devo salutarla perché fra 30 secondi chiudiamo e anzi qua, Nicoletta, secondo me dovremmo fare proprio una puntata solo su questo, la battaglia dei consumatori contro le letture presunte e poi tutti i conguagli, ma se mi leggete da lontano quanto consumo, perché mi dovete fatturare un consumo presunto, no? Dottoressa De Paolo, 10 secondi per chiederle, forse queste sono anche delle segnalazioni che arrivano a voi. Possiamo fare qualcosa per combatterlo, questo fenomeno? L'unica cosa è continuare purtroppo a chiamare il fornitore, continuare a segnalare l'effettivo consumo. È vero è che comunque i soldi che paghiamo in più non ci vengono rubati, perché comunque c'è un conguaglio. Ma io voglio pagarli non prima. È magari come se io andassi al supermercato e mi chiedono, guarda, pagami oggi la spesa che farai per tutto il mese, chissà, cioè non ci sembra in ogni caso corretto. Grazie dottoressa De Paolo, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Un tema sempre caldo, direi. Salutiamo Carmelo Lauricella, certo, che non dorme perché ha le figlie piccole, mica per altri problemi. Vabbè, dai, però guarda com'è carino. Marco Lombardo dorme alla grande, infatti è sempre in forma quando ci aiuta a preparare i nostri programmi. Isotta Scenna, che è sempre bella. Sì, una new entry di Cuore, esatto, Denari. E noi torniamo lunedì? Sempre noi. Buon weekend.